facendo dire per le chiese di Palazzolo, mi sono accorto che molti quadri erano in un certo peggio. E quest'anno, meglio l'anno scorso, nel 1984, mi ero proposto di fare una mostra per il periodo di Natale. Però, analizzando i quadri delle varie chiese, mi sono accorto che molti portavano la data e la firma. Sarebbe stato un lavoro troppo affrettato per presentarla a Natale. Telefonai all'amico Gian Siracusa, che è molto vicino a noi, e abbiamo concordato di rinviare almeno un mese questo incontro, perché giustamente l'importanza di alcuni autori riscontrati tra i quadri di Palazzolo merita un lavoro a parte. Infatti mi sono proposto anche di analizzare questi quadri, di studiarli magari assieme all'amico Sergio Ragusa, e di fare una pubblicazione, in quanto abbiamo a Palazzolo autori di un certo prestigio a livello della Sicilia sudorientale, presente anche nella zona di Modica, di Noto, e quindi direi che la vostra attenzione fosse a questi quadri sconosciuti a noi palazzolesi, e li amassimo ancora di più, perché ce l'hanno lasciati i nostri avi e noi li salvaguardiamo. Mi dispiace anche apprendere che alcuni quadri stanno scomparendo. Io non voglio citare, non voglio fare polemiche, ma sappiamo che a Palazzolo un quadro è scomparso per l'incuria, per l'ignoranza di alcune persone. Ecco, non vorrei che si ripetesse una cosa del genere. Quindi cerchiamo di salvaguardarli, di restaurare quando è possibile questi quadri. Qui abbiamo due parroci presenti, padre Caligiore e padre Teodoro, che sono i parroci più importanti, non più importanti, delle parrocchie più importanti di Palazzolo, non che siano più importanti i parroci, per carità, ma è chiaro, le chiese che loro hanno sotto la loro cura sono le chiese più importanti di Palazzolo Pede. E in queste chiese, specialmente la Chiesa Madre, abbiamo dei capolavori senz'altro molto importanti. Ecco, vorrei che l'intervento dell'Appio Club, l'intervento dei parroci, dell'amministrazione comunale, servisse a salvaguardare queste ricchezze di Palazzolo Pede. E la mia parola basta così, passo la parola all'architetto, che è più adatto a parlare. Io direi che è un ordine pratico, come vediamo anche tutti. Se vuoi sedere, qui. Se tu vuoi sedere, casomai ti puoi sedere, casomai. Se ti vuoi sedere, benissimo. Se tu vuoi sedere, ma siete. Sono ancora ora di nuovo. Ma sei vicino, perché ora puoi mangiare. Da parte dell'amministrazione municipale principale o da parte dei singoli parroci. 2. Un preventivo di spesa fatto da un buon restauratore. Ora lui mi ha detto che il preventivo di spesa me lo darebbe, me lo potrebbe fare lui. Per quanto riguarda invece la richiesta, dovrebbe farla il sindaco oppure i parroci più presenti. Mettendo assieme questi due documenti e inviandoli alla Regione Siciliana assessorata ai beni culturali, evidentemente appoggiando la pratica ad un politico locale particolarmente interessato nei confronti di queste cose, si potrebbe ottenere un giusto, un buon risultato. Perché è necessario che Palazzo Lacreti restauri le sue opere. Ogni opera d'arte, ogni pittura, ne vedremo alcune qui proiettate, ma voi altri già avete avuto modo di vederle lì in quei pannelli. Ne vedremo, dicevo, qualcuna estrapolata da quel contesto per poterne affrontare una certa analisi critica. Perché queste opere sono importanti? Queste opere venivano realizzate con il contributo personale di ogni fedele, di ogni persona abituata a frequentare una determinata chiesa. Cioè ogni cittadino in passato si autopassava per fare in modo che un determinato altare della sua chiesa, appartenente della sua parrocchia, venisse abbellito, decorato, venisse migliorato dal punto di vista della stessa. Ogni cittadino in passato, chi più chi meno, contribuiva a fare in modo che quell'altare avesse una sua dignità, un suo decoro, un suo aspetto esteticamente valido. Quindi vedete, quelle opere che noi abbiamo visto in fotografia sono state commissionate dai nostri padri, dai nostri nonni, da coloro i quali ci hanno preceduto. In questo modo essi rispondevano affettivamente a quella che era la realtà ecclesiale alla quale appartenevano di fatto come fedeli, come cristiani. Oggi come rispondiamo? Rispondiamo con l'indifferenza, rispondiamo con la spazzalietà. Non ne sappiamo niente di queste opere, le abbiamo dimenticate sugli altari, le abbiamo abbandonate e accettiamo che porci di strapazzo oppure viaggiatori che vanno alla ricerca di notizie interessanti per fare guide e per stabilire itinerari ci dicano da lontano, da Milano o da Roma a chi può essere attribuita quest'opera o l'altra. Poco fa ci siamo fatti una risata con l'amico Corrado Allegri. Siamo andati con l'amico Lombardo poco fa a cercare un quadro di Santa Rita nella chiesa di San Sebastiano. Mi piace che c'era il padre che faceva l'omelia e quindi io l'ho disturbato. Perché cercavo un quadro di Santa Rita di cui si dà notizie in una delle tante guide sulla Sicilia. Cerchiamo, cerchiamo, non troviamo questo quadro di Santa Rita. A un certo punto chiediamo, ci dicono no, qui non ci sono quadri di Santa Rita. E ce lo usciamo. Io ricordavo che l'amico Corrado Allegri nei giorni passati mi aveva fatto vedere un quadro di Santa Rita, però ero convinto che il quadro fosse di dentro, e invece non era di dentro. Ho cercato la spiegazione e mi hanno detto: la guida ha scambiato Santa Margherita da Cortona con Santa Rita e quindi dice che quel quadro raffigura Santa Rita. Ma oltre ad avere scambiato il personaggio che sta all'interno della scena, ha anche scambiato l'autore, perché la guida dice che quadro è attribuita a Pietro Novelli, invece la Santa Margherita da Cortona è probabilmente un'opera di Sodano. Pensate, le corbellerie, le fesserie che si vanno scrivendo e che si vanno dicendo, e noi le prendiamo per buone, sol perché la casa editrice che ce le copina è una casa editrice abbastanza famosa, nota. Ma d'altra parte, vedete, è nel clima del nostro tempo confondere la notorietà con la validità. Cerchiamo di starci attenti. Le opere che vediamo sono quasi tutte, le opere lì fotografate, sono quasi tutte opere realizzate dopo il terremoto del 1693. Ce n'è qualcuna però precedente. Dicevo una buona parte, il 90% di quelle opere lì fotografate appartiene al dopo terremoto. Ci sono pochissimi, forse nessuno, degli autori di quelle opere e della zona. siracusana, forse nessuno è parazzolese, forse nessuno, diciamo, è del comprensorio Aretuseo. Perché? Perché con il terremoto del 1693 tutta la realtà locale, tutta la Sicilia orientale, diciamo, fu impegnata nell'opera di ricostruzione della struttura. In pratica, tutte le persone operanti nel settore artistico vennero impegnate nell'ambito specifico dell'architettura. Quindi gli stuccatori diventarono scalpellini, quindi coloro i quali prima svolgevano un determinato lavoro nel campo della pittura furono impegnati anch'essi nell'opera di ricostruzione. Si può dire quindi che tutte le maestranze furono impegnate a ricostruire le forme reali, le strutture reali che noi vediamo. Quindi l'architettura. Alla pittura in quel momento non si pensò, subito dopo il terremoto del 1693, non si pensò alle opere pittoriche. Ci fu quindi un cinquantennio di silenzio, questo settore, il settore della pittura, per circa 50-54 anni, io ho valutato una cosa del genere, fu completamente dimenticato, abbandonato. Ora voi capite che quando una tecnica, un esercizio in questo caso quello della pittura, viene abbandonato per 50-55 anni, si viene a perdere quella che è la realtà locale, l'esistenza delle maestranze specifiche. I pittori, vale a dire, non fanno più i pittori e non ci sono più allievi che vanno a bottega per apprendere il mestiere di pittore. Quindi si ha un periodo di abbandono dell'attività pittorica. Quando le chiese furono tutte completate, e quindi nella seconda metà del Settecento, sorse il problema di decorare, sorse il problema di fare le pare d'altare. E allora si sentì il bisogno di chiamare i pittori, ma pittori locali non ce n'erano, appunto perché l'esercizio della pittura dalle nostre parti era stato abbandonato. E allora vengono chiamati da fuori pittori di una certa notorietà. Siracusa, ad esempio, nella metà del 600 aveva già fatto venire pittori di fuori, però questi pittori di fuori non trovavano un contesto vuoto, un contesto in cui non esistevano altre personalità. C'era il confronto, c'erano altri pittori. Pensate ad esempio, noi chi abbiamo a Siracusa nel 600? Abbiamo Maddioni, abbiamo Minni, abbiamo tutta una serie di pittori che sono stati istruiti dalla grande lezione del Caravaggio. Nel 700 invece non abbiamo nessuno. Quindi, nel 700 vengono chiamati vari pittori, Sinesi e Palermitani. Si arrivano dalle nostre parti i vari Polibio Sozzi, Ermenegildo Martorano, arrivano i vari Giuseppe Cristadoro, arrivano i vari Giuseppe Lomonaco, Sebastiano Lomonaco e così via. Arrivano i vari Vasco, Mattia Prete, eccetera, eccetera. Tutti pittori che vengono da fuori, pittori importanti, pittori che vengono chiamati per operare in una realtà in cui non esiste questa maestranza specifica, quella del pittore. Allora abbiamo queste opere di importazione, cioè opere realizzate qui, in questo luogo, però da pittori che non sono del nostro comprensorio. Questi pittori si sono fermati a Palazzolo, a Noto, a Siracusa, alcuni per un lungo periodo di tempo, altri per brevissimo tempo. Ad esempio, il Cristadoro operava nella zona Iblea. Voi sapete che il Cristadoro ha lasciato notevolissime opere a Sortino, ne ha lasciato diverse anche a Consa, ne ha lasciate diverse a Siracusa. Operava nell'ambito ibleo all'interno delle chiese e delle varie comunità religiose. Ermenegildo Martorana invece lavorava all'interno dei vari casati nobiliari. Quindi, come vedete, ognuno di essi ha un ruolo, una funzione, si muove in un determinato ambito. Olivio Sozzi invece viene chiamato come affrescatore e quasi tutte le più belle chiese del nostro Settecento sono affrescate da lui. Nella nostra realtà, nel nostro ambiente del comprensorio ibleo, cominciano a nascere accanto a questi maestri che vengono da fuori dei pittori locali. Però vedete, sono pittori di basso rango, diciamo, grande. Infatti ce ne sono alcuni che io non menziono, va bene, perché non voglio fare una gerarchia di valori. Ce ne sono alcuni che, orecchiando le cose di Emilio Sozzi, orecchiando le cose di Giuseppe Cristadoro, hanno poi fatto dei quadri che imitano stilisticamente la pittura dei maestri. Sono dei quadri in cui si vede subito, da una prima impressione, che ricava il fatto che non sono opere che appartengono a una mano particolarmente espressiva. Quindi diciamo che noi, nei primi anni dell'Ottocento, abbiamo dei pittori locali, però sono dei pittori che non hanno una buona mano dal punto di vista tecnico e mancano di certe qualità dal punto di vista espressivo. Quindi il recupero che si dovrebbe fare, a che cosa porterebbe? A cosa porterebbe a valutare? Nel caso palazzolese, porterebbe questo recupero a rivalutare, a mettere in sé, a restaurare un gruppo di opere di Giuseppe Cristadoro che è veramente pregevole e che si trova nella chiesa di Santa Laura. Sono opere veramente di pregio, sono opere che andrebbero rifoderate, andrebbero interaiate nuovamente e andrebbero ripulite. Con l'amico Allegra l'altro giorno ci siamo fatti un giro delle chiese. In alcune chiese siamo saliti pure sugli altari per cercare di leggere la firma, per cercare di capire lo stemma, per cercare di capire lo spirito. Molto difficile in quella condizione in cui si trovano le opere fare delle attribuzioni, fare delle analisi, perché abbiamo notato che ci sono delle opere sulle quali è stato depositato successivamente tutto un grumo di colore che non ha niente a che vedere con quella che è la pellicola pittorica originaria. Quindi ecco, bisognerebbe togliere tutto ciò che è stato aggiunto per vedere che cosa? L'opera nei suoi aspetti originari. Ed è solo guardandola nei suoi aspetti originari che si può tentare una discussione, che si può incominciare un'analisi. Così, in quella condizione, non è possibile. Comunque, dati certi, dati sicuri, abbiamo. Ad esempio, quelle opere che sono della chiesa di San Paolo sono di Cristadoro, perché sono da lui. Quell'opera raffigurante la chiesa di San Sebastiano, raffigurante Santa Margherita da Cortona, sebbene sia firmata, è di Diodato, perché stilisticamente è una cosa sua. No, ma dagli arti risulta che di Diodato, cioè ho letto nella chiesa della selva di Padre Giacinto, che nell'archivio della chiesa madre risulta che è stato pagato Vito D'Anna. Ok, ma quindi ma adesso di Sondra, cioè, si riconosce che sì, è una cioè, cosa è di Vito D'Anna. Non ci sono dubbi, lo stile viene immediatamente fuori. Poi ci sono altre opere che con una certa sicurezza potrebbero avere anch'esse affiancate un nome ben preciso. Certo, io starei attento a fare il nome di Pietro Novelli, perché la pittura di Pietro Novelli la si riconosce subito, così come si riconosce la pittura di Vito D'Anna. Sì, bisogna stare attenti. Palazzolo io non ho visto cose che possono essere legate al pennello di Pietro Novelli. Ho visto invece qualcosa che potrebbe essere legata allo stile di Olivio Sotto. Ad esempio la Santa Lucia della chiesa di Sant'Antonio. A me quell'opera sembra della mano di Olivio Sotto. Lo dico questo dopo aver fatto una valutazione l'altro giorno guardando l'opera dal vivo, dopo aver fatto una valutazione su quelle che sono le tonalità cromatiche di tipo cristallino. Ci sono tutti i toni freddi di quella facciamo vedere oppure? Sì, ora dopo la facciamo vedere. Tutti i toni freddi di quella composizione che ricalca dal punto di vista dell'impasto cromatico le opere di Olivio Sotto. Comunque adesso facendo un'analisi della diapositiva ce ne accorgiamo meglio. Quest'opera che vediamo racchiude un crocifisso tra la Madonna e San Giovanni d'Ancona. Quest'opera si trova nella chiesa madre di Palazzo Lacrede. Il supporto di queste pitture è il ligneo, vale a dire questa pittura è stata realizzata su una struttura di cemento, così come anche questa pittura. Io già in passato, invitato dall'amico Somorbina, avevo fatto un'analisi di quest'opera. Ci sono ritornato l'altro giorno con l'amico Allegra e mi sono convinto di una intuizione che già in passato avevo. E cioè, a me sembra che quest'opera sia nella impostazione iconografica quattrocentesca. Dal punto di vista pittorico, certi elementi sono di tipo cinquecentesco, come ad esempio l'elemento questo qui e questa figuretta in basso. Anche queste figure, dal punto di vista dell'impostazione geometrica, ricordano qualche cosa di antonelliano. Quindi, diciamo, potremmo essere tra la fine del 400 e gli inizi del 500. Però questo crocifisso, per via delle sue sfumature e per via di quello che è il suo plasticismo notevolmente forzato, mi ha fatto cadere questa ipotesi iniziale. Però io le cose le accorderei in questo modo. Sovente succedeva che quando la figura andava in via dentrosi, venivano chiamati dei pittori per rifarla o per restaurarla, per risistemarla. Nel caso di questa tavola, di questo crocifisso ligneo, si potrebbe dire che sulla immagine quattrocentesca, forse sbiadita, nell'età barocca del 600 fu dipinto questo crocifisso. Allora la prova adesso da che cosa potrebbe essere data? Da un'analisi della pellicola pittorica, perché analizzando attentamente questa pellicola pittorica si può andare a vedere che sotto di essa c'è un'altra struttura pittorica più antica. Perché, ritorna qui, dal punto di vista chiaroscurale, essendo il notevole risalto il plasticismo, quest'opera non può essere considerata quattrocentesca né cinquecentesca, ma del 600. Questo modo di dipingere è tipico dell'età barocca. Questo modo di dipingere qui, invece, è quattrocentesco, però da noi, questo tipo di pittura si ha alla fine del 400 e quindi nella prima metà del 500. Vediamo. Di questo Sant'Ippolito io ho trovato scritto, ho letto a diverse parti, che si potrebbe tentare l'attribuzione a Pietro Novello. Io adesso vi dico perché quest'opera non è attribuibile a Pietro Novello. Ma intanto, ecco, voglio fare un discorso più metodico. Quindi vorrei dirvi da che cosa, per che cosa, per quali elementi si contraddistinguono le opere di Pietro Novello. Si contraddistinguono per il fondo notevolmente scuro che l'autore immagina come un liquido cromatico all'interno del quale le sue figure navigano. Provate in questi giorni ad andare al Museo Bellomo e notate nelle opere di Pietro Novello questo fondo notevolmente scuro. E le figure anatomicamente perfette, molto ben illuminate, che navigano, nuotano all'interno di questo liquido cromatico. Invece qui io noto che c'è una notevole confusione tra chiaro e scuro. Guardate ad esempio questa testa. Vedete questa testa come non emerge, come viene annegata completamente in questo fondo scuro. Oppure ad esempio guardate questo baglione. Questo bagliore non fa altro che sfocare la visione d'insieme. Cioè Pietro Novelli non inserisce mai questo tipo di bagliori nelle sue composizioni. Perché? Immagina il fondo scuro, omogeneo, per non distrarre l'osservatore. E in questo segue la lezione del Caravaggio. La impostazione poi delle figure. La impostazione delle figure è geometrica. Se io tentassi di fare in questa composizione l'analisi geometrica, tirerei fuori tutta una serie di linee quasi architettoniche che contengono questa immagine. Invece le figure di Pietro Novelli sono molto più fluide, si muovono con una maggiore libertà. Spero di avervi detto l'uno e l'altro, cioè di avervi detto per quali elementi si distingue la pittura di Pietro Novelli e per quali elementi questa non è attribuibile a lui. Vediamo un attimo. Guardate le pessime condizioni di queste opere. Queste opere in diverse parti sono strappate, guardate per esempio qui, no? Qui c'è uno strappo, anche qui. Guardate qui questa piega, significa che quest'opera, vedete qui questa piega, la vedete questa piega, significa che quest'opera, durante una situazione un po' difficile per la comunità urbana, è stata tolta dall'altare, sganciata dalla sua tela, piegata e conservata in cassetto. Va bene? Cioè, durante la guerra spesso i sacerdoti per salvare le opere facevano questo. Questa è la Santa Lucia della chiesa di Sant'Antonio. Potremmo metterla qua. Quest'opera potrebbe essere di Olivio Sozzi. E quindi io qui pregherei l'amico Corrado Allegra, pregherei anche gli amici dell'Istituto Studi Agrensi qui presenti, di fare un'indagine in questo senso. Quest'opera può essere di Olivio Sozzi. Vedete, Olivio Sozzi aveva preso dal Borromano, guardate questi volti così tondeggianti, questi volti che sembrano modellati con la porcellana, però aveva aggiunto al colore del Borromano tutto un tono cristallino che è tipico della stagione. Thank you. i loro schemi iconografici. Se in questi giorni andate al Bell'Uomo, trovate il dipinto raffigurante Sant'Isidoro Agricola, firmato da Mattia Stommer, che dal punto di vista iconografico è uguale a questo, identico e preciso. Trovate anche questi buoi dello sfondo, questi angeli che seminano, e trovate anche questo sfumato delle colline del piano prefossato. Quindi vedete, è un'opera di imitazione, però sebbene sia un'opera di imitazione, ha dei suoi elementi positivi, ha delle sfumature, ha delle tonalità che sono di un certo pregio, e io credo che in seguito a un restauro certi elementi verrebbero maggiormente emergerebbero meglio e quindi diventerebbero maggiormente leggibili all'interno di questa composizione, perché qui sono completamente annegate dal fumo, dalla polvere e dalle pieghe notevolissime che rovinano la struttura telare di queste composizioni. Quindi la rifinitura e il restauro scientifico dovrebbe valorizzare e rendere maggiormente leggibili queste composizioni. La ripulitura dovrebbe servire anche a eliminare alcuni interventi successivi, ad esempio queste teste. Io non posso pensare che una colpitura così sfumata, guardate questa campitura così sfumata, così pulita, così sobria, abbia poi un volto così duro nei contorni. Quindi sicuramente nel volto sarà stato fatto qualche intervento non del tutto positivo. Guardate anche questo cavallo molto bello come immagine, sia dal punto di vista volumetrico che dal punto di vista cromatico. Dà il senso della profondità e questo è un segno di abilità da parte del pittore. Molte cose invece, vedete, non sembrano originali. Guardate ad esempio questo gruppo di angioletti, vedete? Questo gruppo di angioletti non sembra originale, o se è originale certamente non è dovuto al maestro, ma agli allievi. Ecco, c'è da dire anche questo, che questi maestri che venivano fuori, da fuori, che venivano da Palermo, accettavano un po' tutte le commissioni che gli capitavano e loro dipingevano le figure più importanti, oppure si interessavano a dipingere il volto, le mani, tutto il resto lo facevano fare agli allievi. Il Cristadoro, ad esempio, girava per la Sicilia con un gruppo di 50 collaboratori, quindi potete immaginare, quando arrivava questo, il paese era pieno di pittori. Vediamolo un attimo. E questo è Tobietto Piolo, è la figura Tobietto Piolo, questo dipinto. In quest'opera abbiamo notato l'altro giorno che ci sono delle parti originali del dipinto molto pregevoli, guardate ad esempio questo paesaggio dello sfondo, oppure certi particolari dei volti, o guardate ad esempio questa testa, è molto interessante. E anche un certo modo di modellare le carni è interessante e abbastanza originale, sia dal punto di vista cromatico che dal punto di vista plastico. Però abbiamo notato che in questa composizione, così come in tutte le altre opere della stessa Chiesa, ci sono stati degli interventi rovinosissimi. Abbiamo notato segnacci di colore dato con il pennello forse da barbiere, dato a certe figure in basso. Abbiamo notato ad esempio che c'erano degli interventi grossolani in questa zona del dipinto. Beh, forse l'opera non è stata nemmeno scelta dall'altare, è stata ritoccata lì stesso. Magari il pittore è arrivato fino a questo punto, è arrivato fino a questo punto e ha rovinato l'opera fino a questa altezza. Questo non si deve più fare. Mi rivolgo innanzitutto ai sacerdoti qui presenti, che certamente non c'entrano con questi interventi. Ecco, quando queste opere la gente reclama, dicono non si leggono, sono impolverate, sono tutte rotte, sono strappate e così via, non accontentiamo subito la gente facendo verniciare l'opera da un imbianchino. Aspettiamo, abbiamo le giuste pratiche per fare il restauro scientifico, perché queste opere vanno rispettate, non vanno rovinate con questi interventi. C'era un amico di Ferla poco fa, adesso non ricordo il nome, ma pensando a lui sto pensando alla chiesa di Sant'Antonio a Ferla. Nella chiesa di Sant'Antonio a Fella ci sono stucchi pregevolissimi, forse del Serpotta. Sapete che cosa ha fatto la comunità parrocchiale? La comunità parrocchiale ha raccolto 3 milioni per restaurare questi stucchi, per restaurare queste sapete come le hanno restaurate? Le hanno restaurate con la calce. Invece di fare la ripulitura, hanno comprato bidoni di calce e hanno imbiancato tutte le strade. Questi interventi sono rovinosissimi. Sì, accontentano la vecchierella che va lì a pregare e vuole vedere il quadro pulito e fiammeggiante nei colori, oppure vuol vedere le statue pulite e bianchissime, però rovinano l'opera d'arte. Stiamo attenti, non facciamo di questi interventi. Andiamo a questa Madonna del Carmelo è pregevole sia dal punto di vista pittorico che dal punto di vista compositivo. È un'opera che dal punto di vista compositivo ricorda le opere di Giuseppe Salerno. Sì, la chiesa di Giuseppe Salerno. Perché ricorda le opere di Giuseppe Salerno? Questo autore ha l'abitudine di sistemare in basso il committente, oppure il santo che prega, oppure diciamo un qualunque elemento della realtà umana. Nella zona alta del quadro sistema invece coloni i quali appartengono a un'altra realtà, la realtà divina. Quindi ecco, vedete, qui c'è una scansione ben precisa, che nella pittura cinquecentesca, voi sapete, veniva fatta questa scansione dalla linea d'orizzonte e dalla separazione cromatica. Qui tutti i toni cristallini, qui tutti i toni caldi, e poi la linea dell'orizzonte che divideva queste due parti. Questo autore nostro, siciliano, Giuseppe Salerno, vedete, elimina la linea d'orizzonte, elimina il contrasto cromatico, toni caldi e toni freddi, e fa una fusione dal punto di vista cromatico e anche dal punto di vista tecnico. Perché? Perché elimina la linea di separazione. Guardandola nei dettagli, nei particolari, mi sembra pregevole. È un pennello attento quello che ha ricavato quelle figure. E quindi ecco, io quest'opera la analizzerei attentamente. E la analizzerei non solo così nel suo supporto telare, ma anche nei documenti di accompagnamento, sperando che ci sia. E questo è forse il quadro più bello che c'è a Palazzo Lacreto. Lo mettiamo a fuoco. Ed è un'opera di Vito Danna, Santa Margherita da Cortona. È un'opera bellissima perché, sebbene abbia un impianto cinquecentesco, vedete, c'è l'annunciazione di Antonello D'Agostino qui nell'impostazione geometrica, lo vedete subito, c'è lo spazio dell'osservatore, lo spazio della rappresentazione pittorica, quindi questo è il nostro spazio, questo è lo spazio della santa. Il cagnolino, così come lì il vasetto con i fiori, fa la separazione. Quindi nella impostazione è un quadro cinquecentesco, però come sapete questi nostri autori siciliani non è che andavano in Danna, non andavano in giro, quindi non rinnovavano il loro linguaggio compositivo, però erano molto bravi dal punto di vista tecnico. Provate ad andare a vedere quest'opera da vicino, questa sensazione ad esempio di questo paramento bianco che scende, no? E con tutta la sua tessitura, con tutta la sua rigatura, con il suo colore lattico. Questi elementi sono validissimi, questi elementi vanno guardati attentamente perché costituiscono il pregio di l'opera. Però guardate questo crocifisso qui, è modellato in maniera eccezionale, per esempio questo gruppo di frutti di angioletto che non infastidisce completamente questo dialogo tra la santa e il crocifisso. Vedete come sono al di là di quella che è la linea di congiunzione tra questi due elementi. Quindi sebbene sia un'opera di impianto cinquecentesco, è molto bella, sia nei particolari che nella visione d'insieme. È rovinatissima, qui ci sono notevoli macchie di umidità, quindi il colore è saltato completamente. Qui facendo un restauro verrebbero fuori queste lacune notevolissime. Poi l'opera va stirata, perché la vedete che pende tutta in basso, la vedete? Segue la legge di gravità, diciamo, la vedete come pende tutta in basso. Allora qui che cosa succede quando l'opera si va piegando in questo modo? Che nei punti in cui c'è compressione, nei punti in cui c'è compressione, il colore si va spostando, no? Nei punti in cui c'è dilatazione, si presentano le crepe. Quindi ecco, queste opere vanno immediatamente recuperate, altrimenti ecco, fra 10-15 anni non quest'opera è rovinatissima. Qualcuno di voi dirà, ma è così pulita, si legge così bene, i colori sono così vivi. Purtroppo non sono i colori originali, sono tutti coloracci aggiunti. Qui c'è un dito di colore aggiunto su ogni immagine. Guardate questa testa come è stata completamente rovinata, ma guardate, è stata proprio mozzata, è stata tagliata. Qui c'è tutta la figura dietro che dovrebbe rimanere con la ripulitura. È un'opera interessante nello schema, perché vedete c'è lo spazio esterno con lo spazio interno e lo spazio esterno. E quindi è un'opera nuova come impostazione per la pittura del Settecento o degli inizi dell'Ottocento. È una impostazione nuova, perché nuova, diciamo, ripete un'impostazione cinquecentesca, però era un'impostazione che era stata dimenticata e viene ripresa nella seconda stagione del Settecento. E io ho dato per scontato alcune cose, devo precisare. In tutta la storia della pittura il pittore si impegna sempre sul fronte spaziale, si impegna sempre a costruire spazi interni, esterni, a interpolarli, a interirli, a cambiarli, eccetera eccetera. Ora, nell'età barocca, nel Settecento, si ha la eliminazione totale di tutti gli spazi, cioè l'artista immagina le sue figure, le sue composizioni nello spazio aperto, nello spazio libero. Questo in Sicilia si ha nella prima metà del Settecento. Guardate ad esempio tutte le composizioni di Olivio Sozzi, sono pensate in uno spazio aperto, libero. Le figure navigano in quello che è lo spazio aperto. Nella seconda metà del Settecento, invece, la struttura spaziale rientra ancora una volta nelle composizioni pittoriche. Perché? Per dare una maggiore forza alle immagini, per costringerle a muoversi all'interno di un certo schema. E da questo schematismo compositivo si arriverà poi alla pittura ottocentesca, che è proprio una pittura precubista dal punto di vista della composizione geometrica. Quindi dicevo, una bella opera dal punto di vista compositivo, ma che va ripulita perché c'è un dito di colore non suo su ognuna di quelle immagini. Queste due ultime opere che vediamo sono di Giuseppe Cristadoro. Questa qui è del 1802, ma è un'opera ancora di stampo barocco, vedete subito dal suo colore scuro, dalla scena molto dinamica, vedete dalle figure collocate in un esterno senza uno spazio di contenimento. Ecco, forse adesso guardando questa immagine si capisce quel discorso, no? Cioè l'impostazione di questa composizione è com'è, in base a quello che ho detto prima, è della prima metà del Settecento, no? L'impostazione non ha niente a che vedere con la seconda metà del Settecento, perché nella seconda metà del Settecento entra la frantumazione spaziale. Qui invece abbiamo lo spazio libero. Ma Giuseppe Cristadoro, vedete, porta sempre avanti il suo discorso. Infatti ne vedremo dopo un'altra opera giovanile, beh, tanto giovanile, ma è sempre un'opera della maturità, però precedente a questa, in cui c'è sempre questo senso di dilatazione spaziale. In pratica questo artista ha codificato un suo stile nella prima metà del Settecento e lo ha ripetuto, ha operato sempre a quella stessa maniera. Quindi ha dipinto per tutte le chiese siciliane pensando sempre a queste sue immagini all'interno di quello che è lo spazio globale del territorio e non lo spazio frammentario dell'ambiente interno, degli spazi chiusi. La composizione è eccezionale dal punto di vista strutturale. Ci sono delle figure che avanzano alla maniera raffaelletta, vedete come avanzano queste figure, ricordano subito immagini già codificate dal Caravaggio all'interno delle stanze della signatura, no? Ma questi autori palermitani andavano frequentemente a Roma, quindi attingevano da quella cultura, guardavano e poi portavano in quella che era la realtà siciliana. Guardate ad esempio tutti questi elementi in basso nella composizione, apparentemente non hanno nessun significato, non hanno nessun senso, non migliorano la lettura della composizione, però ecco, dal punto di vista pittorico servono a bilanciare, servono a stabilire che cosa? L'equilibrio della struttura pittorica. Vedete questa massa che pesa da questo lato si equilibra con quest'altra massa che pesa da questo lato, questa massa che avanza si equilibra con quest'altra massa che avanza, questa massa che si sposta in questo senso si equilibra con quella che si sposta in questo senso. Cioè la composizione pittorica è molto equilibrata. Quindi Giuseppe Cristadoro è uno che ragiona di dipingere. In alcune opere questo, allora vuol dire che siamo dinanzi ad un'attribuzione forzata, dinanzi ad un'attribuzione che non si può fare. Vediamo l'altra. Questa è l'ultima opera che noi vediamo, ed è il Transito di San Giuseppe. Guardate com'è bella la confusione. Questa è ancora in buone condizioni, non è stata maltrattata e la tela è ancora ben stirata. Invece l'altra che abbiamo visto era la sepoltura di San Biagio, era notevolmente compromessa ai lati, visto che la tela faceva notevoli giri di base. Invece questa qui è ancora ben stirata. E poi a me è sembrato che le varie figure non sono state maltrattate, non ci sono aggiunte di colore che abbiano modificato, alterato le colorature originali. Noi siamo abituati a queste immagini. Certamente alcuni di voi ricorderanno che questa figura è stata più volte ripresa dalle figurette, dai santini che una volta ci davano in chiesa quando eravamo bambini. Ve le ricordate, questi volti, questi volti, questi mani, guardate questa figura del creatore, no? Cioè sono entrate così con una tale forza, con un tale assorbimento all'interno di noi, che non riusciamo più ad apprezzarli in quello che è il loro carattere originale, in quello che è il loro senso rivoluzionario, perché queste opere, vedete, nel loro tempo, nel momento in cui sono state concepite, hanno creato una certa rivoluzione. Pensate a tutta quella strutturazione, ci ritorno di nuovo perché è un concetto fondamentale questo. Pensate a tutta quella strutturazione che si era fatta nel 500 e che si continua nel 600. Guardate questo pittore abilissimo, come riesce a immaginare più scene fatte di una narrazione fatta a puntate con più scene di un lungo spazio. Guardate come è bello. Vedete, questa scena non ha niente a che vedere con noi, non ha niente a che vedere con lo stato. Eppure, ecco, vedete, ci sono tre episodi, tre momenti in un unico supporto telare. La fusione come avviene? La fusione avviene attraverso tutta una serie di sfumature, attraverso tutta una serie di passaggi tonali che sono pregevolissimi. Poi ricordate il discorso del bilanciamento pittorico che io facevo a proposito del Cristadoro. Guardate com'è bello. Il colore caldo, in basso, che dà senso di vaporosità e quindi di dilatazione, e porta il nostro sguardo verso l'alto. Vedete? Come la fiamma, no? Che porta il nostro sguardo verso il cielo. E guardate in alto che cosa troviamo. Il colore proprio cristallino del cielo. E oltre il colore cristallino, i toni ocra. Quindi i toni dell'oro. Non è un mosaico normale, ma anche qui c'è il tono dorato che ricorda che cosa? Quella porzione di spazio in cui vive il Creatore, in cui vive Gesù Cristo. Ed è uno spazio diverso dagli altri spazi. Ma è uno spazio che si diversifica dagli altri per le sue colorature. Quindi, come vedete, questi colori sono i colori dell'ambiente domestico, quei colori all'interno dei quali noi navighiamo, le nostre figure navigano. Questi sono invece i colori all'interno dei quali naviga la figura dell'Eterno. È molto bella questa pittura, ed è molto bello il passaggio graduale tra toni caldi e toni freddi. Sono opere da rivalutare. Sono opere da restaurare e da rivedere con un occhio più attento, sia perché appartengono al nostro passato, sia perché sono segni del sacrificio di coloro i quali ci hanno preceduto. Vi ringrazio. Che ci ha fornito, questo è un piccolo omaggio della Sublime d'Italia, un piccolo omaggio, una moneta sempre però in edizione, sì. Non originale. Va bene. E quelle che sono originali. Sì. Sì.